Il professor Raffaele Romanelli insegna storia del Risorgimento, credo. Contemporanea. Storia contemporanea adesso. Sì, adesso sì, prima. A Pisa e è stato... Ci stiamo ancora qui. Credo che ci siano sedie. È stato tra i promotori appunto della rinascita di studi intorno al tema della borghesia o delle borghesie in Italia. Io appunto non potrei qui elencare i suoi lavori, però vorrei quantomeno segnalare due volumi, uno che è appunto molto fortunato, credo è uscita una nuova edizione, il testo è del 79 se non sbaglio, sì. Questa è la nuova edizione del 90 e sull'Italia liberale, e l'ultimo suo volume, cito solo appunto queste due opere, sulle carte interminate e riguarda i segretari comunali in Italia dal 1860 al 1915. Io credo appunto di aver un po' esaurito la mia funzione di presentatore, do la parola al professor Romanelli che ringrazio, però volevo appunto aggiungere prima di chiudere che proprio su questi temi, cioè sul tema del corso di aggiornamento, si terrà anche un convegno prossimamente a sociologia che vede coinvolto anche il professor Romanelli, dal 21 al 23 maggio, e il titolo del convegno è esattamente Dalla città alla nazione, la borghesia in Italia e in Germania nell'Ottocento. È un'informazione appunto per coloro che poi fossero eventualmente interessati ad approfondire un po' questi temi. Ringrazio ancora Raffaele Romanelli. Sì, ringrazio direi di queste parole di presentazione. Ho sentito che negli ultimi incontri si è parlato soprattutto di crisi, il tema della crisi naturalmente riguarda molto la riflessione su questi gruppi sociali. Io devo rifarmi ad un momento precedente, forse poi per concludere, su problemi di cui avete già parlato. Il modo di parlare delle borghesie europee, dando uno sguardo comparativo, come suggerisce il titolo, potrebbe essere quello, come spesso è in questo tipo di studi, di dare per scontata, per acquisita, una definizione empirica del soggetto in questione, le borghesie, e poi vedere di paese in paese come si presentano questi tratti. Quando dico definizione empirica, proprio dico una definizione comune, di buon senso. In genere si intende per borghesie i gruppi imprenditoriali, i commercianti, a volte gli artigiani, sicuramente i professionisti, i funzionari, tutta una serie di gruppi, di categorie ai quali comunemente si pensa, parlando di storia, quando si parla di borghesia, o più in generale si può dire quei soggetti, quegli individui liberi, titolari di diritti nell'ordine costituzionale, o soggetti presenti nell'economia. Ecco, partendo da definizioni che non sono nemmeno definizioni, da elementi di senso comune, poi spesso la storiografia parla di Germania, Francia, Inghilterra, Italia, eccetera. In parte farò anch'io così. Tuttavia, il termine che unifica queste varie realtà, questo termine borghesia, è così impreciso, è così chiaramente non fa riferimento ad una possibilità univoca di classificazione del sociale, è così intrecciato a sua volta con quelle esperienze, cioè il fatto che in Germania, in Francia, in Italia, in Inghilterra, le strutture sociali da un certo carattere piuttosto che un altro, e quindi abbia dato vita a significati o a parole diverse. Ecco, il termine che tutti ricomprende è così intrecciato con una varietà di situazioni e di significati da suggerire, in modo a mio giudizio prepotente, di riflettere sul termine stesso invece che operare, come a volte la storiografia sociale fa, una sorta di verifica empirica sulla base dei documenti per vedere quanti, dove, in che modo questi soggetti. Cercherò anche di accennare a questo, però sono sempre poi incline, affrontando questo problema, a spostarsi una riflessione, diciamo, sul concetto e sulla storia del concetto. A cominciare dal fatto, proprio dalla sua origine terminologica, cioè dal fatto che questa parola indica originariamente, come la sua radice dice, il ceto borghese, il ceto delle città, il ceto delle borghesie che abitano il Burgus, e in particolare alcuni caratteri che questo soggetto nell'Europa medievale, nell'Europa moderna, viene ad avere. Ecco, alcuni caratteri. Quali caratteri? Ad esempio, ci è molto familiare una associazione, come dire, culturale, associazione mentale, che rinvia da questo soggetto borghese alla mercatura, alle attività economiche, mercantili dei comuni medievali, in particolare i comuni italiani. Ecco, già un'associazione del genere, se noi ci lavorassimo un po', vedremmo che è un'associazione letteraria molto tarda, abbastanza corrente nell'Ottocento, ma che facilmente studi di storia economico-sociale possono discuterne, possono mostrare il carattere culturale, come dire, ideologico, il tutto relativo, perché poi di fatto le élite comunali erano in gran parte élite di possidenti, di proprietari terrieri. Ciò che caratterizzava questi gruppi di élite non era tanto la dimensione, come noi oggi diremo, borghese, imprenditoriale, mercantile dell'innovazione, bancaria, eccetera, ma era proprio, o anche in modo particolare, il rapporto coi contadini, la proprietà, che è un altro tipo di riferimenti a cui si parla, a cui si pensa quando si parla di borghesia. Ecco che qualsiasi passo si venga a fare, tentando di focalizzare l'attenzione sui significati impliciti che noi, discutendo, attribuiamo a questa parola, e poi cercando di verificarli anche con la storiografia, la ricerca sociale, vediamo che subito nascono dei problemi di conferma. Sicuramente uno dei caratteri più generali che noi attribuiamo a questo soggetto e che colleghiamo in qualche modo alla sua cittadinanza urbana è il fatto di essere un soggetto libero, il fatto di essere un individuo titolare di diritti di libertà, se così posso dire, quindi di una libertà certamente prestatuale, di una libertà che fa riferimento a antichi privilegi attribuiti agli abitanti delle città. Ecco, forse questo è un elemento, perché nell'Ottocento, noi parliamo dell'Ottocento, il punto focale del significato di questa parola è dato dalla estensione universalistica di questa posizione, del soggetto individuo libero che da segmento delle società del passato, titolare di certi privilegi, di certi diritti, si, come dire, espande o occupa una posizione centrale o egemonica o caratterizza l'intera civiltà che si va affermando. La celebre frase di Sieyès, che cos'è il terzo stato? Tutto. Che cosa è stato finora? Nulla. Indica, è uno dei tantissimi slogans di grande fortuna, questa tensione che indica uno spostamento da ceto particolare a ceto generale. E la definizione, questo significato è un significato presentissimo nella cultura, in particolare francese, ma come adesso vedremo non soltanto francese, della prima metà dell'Ottocento. A metà Ottocento Augustin Thierry appunto scriveva questo nome di terzo stato, quando diventa un'espressione consueta, comprende di fatto non solo la popolazione delle città privilegiate, ma potenzialmente si intende ben oltre, per cui pur ristretta che fosse, per la sua natura affatto municipale, la rappresentanza del terzo ordine, essa ebbe costantemente il merito di credersi incaricata di difendere non la causa di questa o quella frazione, di questa o quella classe di popolo, ma quella della massa dei non nobili, il popolo senza distinzione di franchi o di servi, di borghesi o di contadini. Qui notate che il concetto generale è quello di terzo stato, il concetto arcaico, come dire, specifico, è quello di borghesi. Ci sarà in una data precisa, in un momento storico preciso, lo slittamento per cui ciò che in questi testi è terzo stato si chiamerà borghesia, e appunto borghesia non sarà più non indicherà più quel particolare segmento della società, ma qualche cosa, ecco, di più ampio e di diverso. Sottolineo che con tutto ciò si vuole soprattutto mettere l'accento su un processo storico, su un processo che emblematizza il soggetto della modernità come individuo libero e ne fa il suo eroe, crea, come dire, un monumento, inventa il soggetto borghese in quanto questo soggetto si incarica di rappresentare un processo storico al centro del quale è indicato l'emergere di una, come elemento centrale della storia e della società, di un individuo singolo libero. Questo è il processo anche di formazione dello Stato moderno, i diritti di cittadinanza e i diritti di libertà. I moderni diritti non esisterebbero senza l'ordinamento giuridico statuale moderno. È anche il processo che vede inscindibilmente legato a questo l'affermazione del mercato come categoria generale, come regola comune dei rapporti economici e non economici tra gli uomini. Entrambi i processi, creazione del mercato e dello Stato, che eliminando i corpi intermedi, possiamo dire, i privilegi corporativi, i privilegi, tutti quei legami corporati che stanno appunto al di sopra dell'individuo, al di sotto dell'universalità dei cittadini, si pongono come, per la coscienza culturale dell'Ottocento, come l'opposizione rispetto all'individuo. Si passa da una società, da società tradizionali in qualche modo corporate, a società moderne, al centro del quale è l'individuo libero e soggetto ai diritti e di capacità contrattuali. E quindi anche libero l'individuo proprietario. Un'altra equazione possibile è borghese proprietario, libero proprietario. E il riferimento è preciso quando si parla di individualismo possessivo, come viene fatto, cioè un individuo che viene ponendosi tra 5 e 700 in quanto titolare di diritti di proprietà. L'essenza, in altre parole, di questo processo lo possiamo anche identificare tout court con la modernità, con quella categoria particolare della dimensione storica che è la storia moderna, che non è soltanto quel pezzo di storia che si pone tra il Medioevo e l'età contemporanea, ma è quella dimensione che organizza l'intero processo storico come una serie di epoche significative, per cui si passa da una all'altra in un processo, non semplicemente in una successione di eventi. E molto spesso quindi oggi questa parola antica e complessa viene utilizzata in un'accezione un po' diversa, si parla di modernizzazione. Non entro qui nel metodo dell'uso di questa parola, l'uso sociologico di questa parola, però veramente si può dire che in questo senso, quando si parla di borghesia, il pensiero storico dell'Ottocento e, come vedremo, il nostro pensiero storico, in questo senso gli infiniti significati, le ambiguità, i problemi, i dibattiti ruotano intorno all'essenza del processo della modernità, così come si realizza poi nei singoli casi e in generale. In questo senso il borghese è il citoyen, è il soggetto della società civile, opposta allo stato naturale, è il soggetto della società civile come società borghese, appunto, la parola in tedesco si equivale, e anche in altre lingue è il soggetto centrale della società, come mostra molto bene la lingua inglese, che non conosce la parola, che è l'unica lingua europea che non conosce la parola borghesia, non conosce la parola middle class, che è una parola sostanzialmente di uso recente, cioè ottocentesco, in cui il middleman in realtà è una espressione apparentemente neutra classificatoria, perché indica una metafora spaziale, alto-basso, e poi c'è una strata intermedia, in realtà indicante una centralità che ha lo stesso significato che attribuivo poco fa alla dimensione del cittadino, del borghese. Il medio rango, le middle classes, in Inghilterra sono definite sempre come per esempio, la classe, la più saggia e più virtuosa parte delle comunità. Quella classe, prendiamo le parole di Sir James Graham, quella classe numerosa, lontana dai bisogni dei lavoratori e dagli spasmi dell'ambizione, che gode dei vantaggi del tempo libero, possiede un'intelligenza sufficiente alla formazione di giudizi sensati e non è traviata dall'interesse né oscurata dalla passione. Chiaramente questa è una definizione che non indica alcuna classificazione stratificazionista in senso sociologico, ma che indica appunto una centralità ideale. E di questo veramente noi abbiamo moltissime conferme, proprio nel sentire comune ottocentesco. Arthur Young nel 1798, visitando la Francia, scriveva che il sapere, l'intelligenza, l'informazione, la cultura e la saggezza dovrebbero governare le nazioni, e questi valori per lo più risiedono tutti nelle classi medie dell'umanità. E forse non voglio accumulare citazioni, ma una molto nota di Guizot, pronunciata alla Camera francese nel 1837, è ancora più pregnante, del resto ci sono 40 anni di differenza. Esiste, disse Guizot, in seno a una grande nazione come la Francia, una classe che non è costretta al lavoro manuale, che non vive del salario, che ha il tempo libero per pensare, che può consacrare una parte notevole del proprio tempo e delle sue capacità agli affari pubblici, che non solo ha i mezzi necessari per tale opera, ma che è provvista al tempo stesso di chiarezza e indipendenza, senza cui tale opera non può essere realizzata. Come vedete, l'accento batte molto forte su cultura, intelligenza, indipendenza, batte molto su quegli elementi che sono così familiari, per esempio nella formazione della middle class inglese, che noi chiamiamo opinione pubblica, cioè quel fenomeno che avviene nel Settecento in perfetta identità con il momento di crescita di questi soggetti, crescita economica, crescita civile, che è la nascita della stampa, del dibattito, della circolazione delle idee nell'opinione, e che offre anche il modello al sistema costituzionale parlamentare inglese, che è un sistema tutto incentrato sulla libera discussione parlamentare, più che sull'attività di produzione legislativa, che è un momento tecnico secondario, anche faticoso, come dire, per i deputati, cioè l'idea che il Parlamento inglese sia un luogo dove si riunisce il meglio della nazione e attraverso un dibattito che ha alle spalle una profonda esperienza di dibattito culturale nella pubblica opinione, si formano le decisioni migliori, vengono prese decisioni più sagge per la nazione. Questo quindi è un polo molto forte, cultura, intelligenza, indipendenza e indipendenza basata sull'economico. Tutte queste definizioni insistono sul fatto che il borghese è colui, o il middleman è colui che non lavora con le mani per il proprio sostentamento e quindi è libero di occuparsi di cose che riguardano la generalità. Tutto questo si basa sulla proprietà, è una classe abbiente. Di fronte alla difficoltà nel 1945 di definire questo concetto, Engels, ancora non c'era stata la piena, diciamo, creazione marxiana del concetto di borghesia, in senso che ci è familiare, Engels nelle condizioni della classe operaia in Inghilterra, parlando di Mittelstand, di ceto medio, diceva: ho sempre adoperato l'espressione classe media, nel senso dell'inglese middle classes, laddove come il francese bourgeoisie essa indica la classe abbiente. Specialmente quella classe abbiente che è distinta dalla cosiddetta aristocrazia. Questo breve riferimento engelsiano mostrerebbe a un osservatore di oggi la grandissima confusione terminologica tra Mittelstand, classe media, borghesia, aristocrazia, bourgeoisie, middle classes, perché ancora in questo coacervo di parole, di posizioni, di proposizioni, non si era solidificato tutte queste cose intorno al concetto di borghesia. Ancora tutto ciò non era stato chiamato borghesia, come fece principalmente Marx, prendendo da Saint-Simon, che aveva dato questo, come dirò tra un attimo se ne avrò il tempo. Come dire, quindi ruotavano, c'era un problema terminologico in atto che Engels dimostrava, ma tutte queste parole noi possiamo addensarle in un significato generale, anche se questo significato generale poi rimane complesso. Vediamo allora quale potrebbe essere l'elemento in ultima analisi comune, l'ho detto, l'emerge l'individuo libero e il soggetto della modernità. Sicuramente tutto ciò è concepibile soltanto in un'epoca post-rivoluzionaria, intendo per post-rivoluzionaria dopo la rivoluzione francese, dopo in genere l'eversione della feudalità, quella che comunemente chiamiamo la fine di una società di antico regime, con tutta l'imprecisione che questo termine può. Quindi, senz'altro, noi pensiamo ad una classe, non pensiamo ad un ceto, ad uno Stato. Mi si potrebbe osservare che Thierry Guizot parlava di terzo Stato, ma appunto parlavano di un processo storico in cui il terzo Stato, come dice Sieyès, vuole diventare tutto. Non siamo più in presenza di uno Stato, di un ordine. Ora, forse bisognerebbe avere presente la distinzione classe-ceto, classe-Stato, che è una distinzione in qualche modo ovvia, ma poi di fatto nell'uso non molto semplice. Perché non molto semplice? Non soltanto per il fatto che tutte le definizioni che rinviano a situazioni istituzionalmente definite hanno il significato che quella istituzione ha nei singoli contesti. Stand, età, state, stato, evidentemente è altra cosa in Germania, in Italia, quindi in tedesco, in italiano, in francese. E quindi l'incrocio tra queste parole è complesso, anche ordine, order, ordnung, orden, in tedesco forse più orden che orden. Insomma, le varie accezioni sono cariche del significato storico che questa parola ha. Sicuramente classe, e non voglio qui aprire un discorso lungo sull'origine della parola classe, però, come dire, è un termine che si pone come nuovo rispetto a questa situazione di ordini o di ceti. Questa è una cosa di immediata comprensione. Secondo la distinzione weberiana, la classe, l'identità di classe si individua nel mercato. Quella di ceto, sul terreno invece del prestigio e dell'onore, cioè in altre forme di identità, non direttamente riferite immediatamente direttamente all'economico, ma a una serie di valori e quindi anche poi di legami, certamente. Ora, noi la parola italiano ceto la traduciamo oggi con delle parole come rank, come stand, che hanno una densità istituzionale molto maggiore. Quando noi in tedesco parliamo di Stato, o anche nella Francia antico regime di Stato, intendiamo una realtà istituzionalmente definita. Quando invece parliamo la sociologia moderna parla di status group, che è una cosa veramente ormai più lontana dalla dimensione istituzionale tradizionale, gruppo di status. E quando con Weber si crea questa distinzione classe-ceto, Weber fa riferimento a situazioni di ceto moderne, post-rivoluzionari, non situazioni di antico regime che hanno una propria identità istituzionale, tanto che fa degli esempi in America, fa degli esempi delle situazioni di ceto nelle università americane, per esempio, volutamente non fa riferimento agli ordini dell'antico regime europeo. Quindi, parlando di questa borghesia, noi dobbiamo dire che in qualche modo è una classe, cioè tutte queste cose delle quali parlavo si identificano sul terreno della modernità e quindi della classe e non del ceto. Questo qui è un problema essenziale, lo sottolineo, ci tornerò un attimo, perché si tratterà di vedere, se posso anticipare questo elemento, si tratterà di vedere in che modo molti fenomeni di status o cetuali hanno per la borghesia carattere in qualche modo residuale, cioè vengono dal passato, sono elementi di rivoluzione non compiuta, e quanti invece sono prodotto di questa rivoluzione e sono elemento della modernità che ricompone, che ricrea elementi di ceto. Ho solo anticipato una cosa sulla quale insisterò tra un attimo. Il punto è che quando noi parliamo di una classe di soggetti, cioè di individui che hanno molti elementi in comune e si distinguono dagli altri, dal resto della società, lo possiamo fare empiricamente o dal punto di vista giuridico-istituzionale, perché ci sono delle persone che hanno una posizione giuridica normativa diversa dagli altri, o dal punto di vista dell'economico, perché sono soggetti che si caratterizzano per una collocazione specifica, particolare nell'ordine economico, o da un punto di vista culturale, antropologico, più generale. Allora diciamo che la classe pura, weberianamente pura, classe moderna, è la seconda in qualche modo, cioè la classe che si definisce sul terreno del mercato e dell'economico. Sul terreno istituzionale noi diciamo che sicuramente la borghesia dell'Ottocento si caratterizza per essere appunto un soggetto post-rivoluzionario e quindi per non avere più alcuna identità giuridicamente definita. Ci sono soltanto due problemi. Innanzitutto che in quei paesi, come tipicamente in area germanica, dove questa rivoluzione, questa distruzione dell'ordinamento cetuale, antico regime, è avvenuta in forme meno drastiche, sicuramente esistono per tutto l'Ottocento delle identità giuridiche, sia pur secondarie, giuridicamente definite, dei privilegi, delle condizioni giuridiche diverse. E quindi quando noi diciamo, beh, la borghesia ottocentesca si definisce comunque sul terreno dell'economico e del culturale, dobbiamo anche ricordare che ci sono delle situazioni in cui privilegi. E proprio tra l'altro il convegno trentino di maggio rifletterà anche su questo, perché non ci è molto chiaro fino a che punto si dica, ma fino a che punto poi è, proprio nella condizione giuridica dei singoli. Però teniamo presente che il codice civile tedesco, per esempio, per molto tempo fa distinzione di soggetti, distinzione giuridica, sia pure, ripeto, in una dimensione non residuale, però a vedere queste cose in Europa si trovano degli elementi, tipicamente nel diritto elettorale. Per tutto l'Ottocento, in molti diritti elettorali, quello inglese, il diritto elettorale inglese non assegna la titolarità del diritto politico ai singoli, mantiene fino alla fine dell'Ottocento la dimensione storica di privilegio, c'è chi ha il voto, c'è chi non lo ha per motivi tradizionali, tanto è per esempio che le università di Oxford e Cambridge mantengono un voto, che è un voto tipicamente corporato, fino al 1950. Quindi diciamo esistono fortissimi elementi secondari nell'ordine complessivo della società borghese, però diciamo teniamo presente anche questo. Detto questo, possiamo sottolineare che l'identità giuridica è scomparsa effettivamente. Certo però, ecco il punto che toccavo prima, invece quella dimensione eccettuale che si definisce sul piano della cultura, dei valori, come dire, dei comportamenti, degli attributi di status appunto, è anche in particolare prodotto di una modernità. Non è soltanto un residuo della tradizione, in altre parole più semplici. Metà Ottocento, scenario sociale, dominato da comportamenti aristocratici. Usciamo per la strada in una qualsiasi città dell'Ottocento. Tutto è dominato da una simbologia elitaria. Ci sono i nobili, i ricchi che si comportano come i nobili, che hanno tutta una serie di differenziazioni di gruppo rispetto ai commoners, rispetto alla gente comune. Siamo di fronte a residui di antico regime che poi la rivoluzione moderna sta pian piano sciogliendo, o siamo invece di fronte a qualcosa che questa società prepotentemente ricrea? Secondo alcuni, è questo il punto, e io vorrei citare, per questo ho preso il testo di questo libro perché venendo qui mi sono ricordato questa citazione, e vorrei citare una frase di Hegel. Se si debbono elevare le menti sul lusso e sulla mania di prodigalità delle classi industriali, cui si connette il generarsi della plebe, non si deve non osservare in altre cause, per esempio nella crescente meccanizzazione del lavoro, la ragione etica. Senza essere componente di una corporazione legittima, il singolo senza dignità di classe è ridotto dal suo isolamento al lato egoistico dell'industria. Quindi egli cercherà di conseguire il suo riconoscimento mediante le dimostrazioni esterne della sua riuscita nella sua industria, perché non c'è modo di vivere conformemente al proprio ceto, in quanto il ceto per lui non esiste più. C'è un passaggio tutto iniziale magari non molto chiaro, alla lettura, il soggetto, in quanto non è più membro di una corporazione che lo definisce, in quanto è soggetto libero, in quanto non ha dignità di classe, in quanto datagli dall'appartenenza a una corporazione, è ridotto al suo isolamento, al lato egoistico dell'industria. Quindi cercherà di conseguire il riconoscimento mediante le dimostrazioni esterne della sua riuscita. Ecco, cito Hegel perché si colloca all'inizio di un processo, perché si colloca al cuore di una società come quella tedesca, quella germanica, che dà fortissima importanza e continuerà a darla all'identità di ceto, e perché dice in modo molto semplice, io credo, che è la fine delle barriere di ceto a produrre quella dimensione che noi chiamiamo nuovamente cetuale con Weber, cioè in cui sono molto accentuate le differenze. Le differenze affidate a elementi che riguardano l'onore, il prestigio, la dimostrazione apparente delle apparenze e così via. Come fenomeno, ripeto, che ha una dimensione accentuatamente moderna e dato che alla fine di un ciclo storico, un altro autore come Proust, un altro autore molto diverso, ma che ha dedicato la vita a cercare di cogliere i meccanismi di funzionamento di una società d'élite, dice: una società non potrebbe essere forse tanto più segretamente gerarchizzata man mano che divenisse di fatto più democratica? Ecco, tra l'una e l'altra citazione ce ne sono moltissime. Tanto più la società ottocentesca è una società di eguali, di soggetti liberi, individui sul mercato, tanto più produce in modo ossessivo una necessità di gerarchie. E allora, uno dei problemi che ci possiamo porre è di vedere in che misura la borghesia ceto generale plasma, egemonizza, come dire, questo processo storico complessivo, o meglio, in che misura i processi del mutamento ai quali ho fatto riferimento in modo sintetico, i processi della modernità, sono borghesi, cioè in che misura si presentano sotto la fattispecie della borghesità, per così dire. Cioè in che misura sono tali da poter essere rappresentati simbolicamente dal tipo ideale soggetto borghese libero, quel soggetto che si evolve nella nostra comprensione dal soggetto dell'abitante del borgo. Quando dico in che misura quindi la società moderna è borghese, della Germania, la Francia, l'Italia e così via, uso un'espressione che può essere ambigua. In che misura vuol dire che c'è un problema di contarli? Qui forse ci vuole una parentesi, perché di fronte ad alcuni dibattiti storiografici ai quali anche farò riferimento tra poco, una delle possibili risposte di fronte a polemiche, la borghesia tedesca è meno borghese, quella italiana è meno borghese, quella inglese è più borghese, una delle risposte della storiografia sociale è: contiamoli. Andiamo a vedere se tra due società questi soggetti che dicevo prima empiricamente, i commercianti, gli industriali, gli avvocati, insomma, quanti sono, dove stanno. Questo fatto di contare le persone nasce, ha una lunga storia, e nasce esattamente dal problema che poniamo, dal problema che è evocato da Hegel. Nel momento in cui finisce l'identità corporativa di ceto e siamo di fronte a società di uguali, beh, insomma, per capire com'è fatta la società bisogna cominciare a fare gli elenchi. È così che nasce la statistica come scienza dello Stato, come scienza di governo di una società che ormai è una società che non è più decifrabile, perché non ha più ordinamento. E la statistica di fatti nasce in questo senso con Napoleone, cioè con una necessità di gestione del territorio periferico dell'impero al di là. Molte fonti, adesso poi, e questo è un tema, è un argomento di ricerca storica che dobbiamo abbandonare in questa discussione, ma quando gli storici sociali oggi si pongono il problema di contare i borghesi cosa fanno? Vanno in archivio, evidentemente. Cosa trovano in archivio? Trovano il prodotto di quell'attività amministrativa, cioè di coloro, a cominciare dai prefetti napoleonici, che per dover amministrare le città periferiche dell'impero dicevano: ditemi lì chi comanda, dobbiamo nominare un sindaco, insomma, chi nominiamo? Non esiste più una struttura aristocratica e corporativa. E le prime liste sono le liste dei plus imposés. Vediamo chi paga più tasse. Questa è una cosa del tutto rivoluzionaria, perché rispetto a una società settecentesca, questo cominciare a classificare sul terreno della dimensione economica è una cosa del tutto nuova. E naturalmente poi a questo si aggiungeranno altre liste. Sì, ma vediamo anche chi abita una bella casa, chi, insomma, tante altre cose, perché, e queste sono le nostre fonti. Devo dire però che, e qui chiudo questo argomento, che sempre di più la storiografia sociale, o perlomeno alcuni settori della storiografia sociale, a cui appartengo anch'io, si rendono conto che da questo contare molto faticoso non arriva da nessuna parte, proprio perché la dimensione borghese non è, la centralità borghese non è un fatto quantitativo. Certo conta, sicuramente conta che ci siano molte persone riconducibili a questa fattispecie, come conta che nell'Inghilterra del Settecento c'è molte persone che leggono i giornali, certo che conta per lo sviluppo della civiltà borghese, ma non è riconducibile, come dire, statisticamente a questo elemento. Se noi non sappiamo esattamente cosa vuol dire essere ricco in quella situazione, cosa vuol dire saper leggere, cosa vuol dire essere avvocato, e quindi è un po' un circolo vizioso. Ci interessa forse di più sapere in che modo questi soggetti sono classe o sono ceto. Posso adesso usare con un po' di scioltezza questa parola, ho fatto cenno ai problemi che ci sono dietro. Cioè, appunto, in che misura noi siamo in presenza di fenomeni cetuali come residuo dei vecchi ordini, che però hanno conseguenze anche sul moderno, fino a che punto siamo in presenza di segmenti chiusi e corporati, diciamo, e fino a che punto invece siamo in presenza di meccanismi, di visioni che si creano in una società molto mobili, molto aperte, con forte scambio, una forte circolazione di soggetti, di valori, di ricchezze. Fino a che punto esistono, anche se non più giuridicamente, delle barriere che fanno sì che degli addensamenti intorno a classi di reddito, a professioni, siano forti. Per esempio, un modo che ha la storiografia di provare a verificare questo è il tasso di endogamia e di esogamia. I figli dei funzionari si sposano tra di loro o no? Ecco, questo per esempio è un'ipotesi che allude a cosa? Beh, a quelle relazioni personali, economiche, affettive, insomma, di abitazione, eccetera, che sono rappresentate da un matrimonio, da uno scambio matrimoniale, per esempio. E allora qui a questo punto io non dedicherò particolare attenzione, però si capisce che a questo punto una casistica nazionale può aver senso, se si hanno in mente, si tengono presenti questi problemi. E allora emergono alcune cose che tutti sappiamo, per esempio che la Germania si presenta con alcune peculiarità notevoli per questo destino ottocentesco che fa sì che la Germania sia il paese, sia noto come il paese che non ha avuto la rivoluzione nella prima metà dell'Ottocento, in cui la rivoluzione borghese è abortita, per così dire, si è arenata, si è sacrificata all'accordo con l'aristocrazia prussiana. Diciamo in linea generale, la storiografia ci consegna poi, come sempre, con larghe eccezioni, con larghi revisionismi, con larghi ripensamenti, proprio sul terreno anche della storia sociale, ci consegna questa immagine che ha un suo fondamento, cioè di una borghesia, di gruppi emergenti, liberali, del pensiero costituzionale, abitanti delle città, eccetera, eccetera, che patisce nell'Ottocento una forte subordinazione all'ordine aristocratico. All'ordine, come dire, sì, che diciamo all'ordine aristocratico. Però non è tanto questo il punto, quanto che sicuramente perdurano forti vincoli di ceto, forti segmentazioni nei vari gruppi borghesi. Non è un caso che la Bürgertum come gruppo generale, la bourgeoisie complessiva, proprio anche nella terminologia germanica, tenda a segmentarsi in gruppi borghesi che hanno una loro specificità, tipicamente la Bildungsbürgertum, cioè un termine in qualche modo io non so nemmeno quando sia stato coniato questo termine, ma dire una borghesia colta, una borghesia umanistica, come una specializzazione, come un segmento cetuale, presenta un quadro molto diverso da quello, per esempio, inglese. Laddove, secondo le citazioni fatte, noi abbiamo in Inghilterra una società nella quale il middleman, l'uomo fa opinione, il benestante, il gentleman, fa opinione anche perché legge, segue il dibattito politico, è colto. Qui abbiamo una specializzazione di un segmento della borghesia, un segmento della società, che, come dire, si definisce per ciò che noi in italiano chiamiamo borghesia colta o borghesia umanistica. Borghesia umanistica è un termine usato per l'Italia, soprattutto per l'Italia meridionale, perché questo fenomeno ha caratteristiche specifiche in Italia meridionale. Questo libro, che è stato indicato anche in bibliografia, tende a tradurlo borghesia colta, per distinguerlo da certe implicazioni del termine borghesia umanistica. E soprattutto ci presenta una situazione nella quale i funzionari, nel senso specifico di ciò che con un termine francese si chiama burocrazia, cioè servitori dello Stato, tendono a costituire un modello di riferimento anche per quei settori della borghesia colta o della cultura che in altre situazioni invece sono libere, non soltanto in situazioni accademiche, ma in genere, per esempio, molte professioni legali. Gli avvocati in Germania sono funzionari, cioè esiste, i notai sono funzionari, laddove in altre società noi abbiamo questi segmenti colti del ceto civile, altra espressione che si può usare. Noi in Germania abbiamo forti identità di ceto, anche lì con endogamia, con simboli di status eccetera, e soprattutto un forte spirito di servizio che è riferito ad un concetto di Stato ed un concetto di fedeltà all'impero che non ha carattere antico regimistico, perché non deriva da un potere divino, deriva da un senso molto moderno di appartenenza a qualche cosa di comune, che certo è raffigurata, emblematizzata la fedeltà all'impero e allo Stato, ma è qualcosa che non è, io credo, in alcun modo riconducibile semplicemente a un residuo antico regime. Bene, la Germania ci presenta, dicevo, se volessimo fare una casistica, ci costringerebbe a radiografare poi i segmenti borghesi della società tedesca, quanti sono gli imprenditori, gli avvocati, cioè, però tenendo presente i problemi posti da queste peculiarità, da questo tipo di peculiarità che derivano dalla storia tedesca, dalla storia prussiana, dal modo di unificazione, eccetera, eccetera. Mentre, sempre richiamo cose note, la Francia ci presenta l'immagine molto diversa di una borghesia terzo Stato, come si diceva. Anche qui bisogna stare attenti alle sovrapposizioni, come dire, storiografiche. Nel momento in cui il termine terzo Stato tende a diventare borghesia, noi non possiamo immaginare di applicare a questa borghesia una accezione zombartiana, un'accezione che viene dalla sociologia tedesca, che identifica la borghesia con un ceto mercantile. Il terzo Stato rappresentato nell'assemblea, chi l'ha studiato ha visto che soltanto in minima percentuale è composto di gente che ha a che fare con la mercatura. Si trattava di piccoli funzionari. Ed anche qui, quindi, attenzione a sovrapporre significati alle parole che vengono desunti da altri contesti e da altre storie. Là, questo processo francese di slittamento dalla terzo Stato a bourgeoisie passa intorno ad altri momenti storici, sicuramente a quello rivoluzionario e per esempio alla creazione di una media e piccola, come è noto, una media e piccola proprietà terriera, come esito del processo rivoluzionario, che come dire, addensa questi significati piuttosto intorno a un'altra parola tipicamente francese, quella del notabile, che indica in modo sociologicamente molto impreciso però una centralità nella società provinciale e periferica di un soggetto che è in genere proprietario, che in genere ha un potere politico, che in genere anche poi è un riferimento anche per il dibattito politico e quindi diciamo per la cultura in senso lato. Diciamo la centralità di una bourgeoisie, di una borghesia come ceto possidente di notabili. È noto che nella storia economica francese la certe difficoltà, certi ritardi nello sviluppo industriale del paese vengono attribuiti anche agli esiti della rivoluzione, agli esiti rurali della rivoluzione, cioè al peso che la possidenza, la proprietà rurale ha negli equilibri economico-sociali complessivi. Sicuramente pensando alla borghesia francese si pensa al notabile, o perlomeno pensando a questa evoluzione da terzo stato a borghesia in senso lato, si pensa ad altri, ad una realtà molto meno segmentata, per fare un paragone con la Germania. Parlando dell'Inghilterra, come già dicevo, noi abbiamo una abbiamo dei gruppi di imprenditori scozzesi di orientamento calvinista, nei quali Max Weber vide l'essenza del capitalismo. Cioè abbiamo effettivamente qualche può essere identificato come borghesia, come hanno fatto Weber e Sombart, in quanto rappresenterebbero l'essenza della trasformazione moderna industriale, ma tornerò a questo tra un attimo. Il punto è che in questo caso noi abbiamo una esigua minoranza che in nessun modo è identificabile col ceto generale, che è la middle class di cui si parlava prima, e di fronte al quale questi imprenditori funzionano come lobby, come gruppo d'opinione, perché sono molto coesi, conducono la battaglia contro leggi sul grano, per esempio, conducono veramente una battaglia d'opinione come minoranza esterna al sistema sociale e politico. La società inglese nel complesso è una società diversa, è una società che non segmentata, fortemente stratificata ma aperta. Direi che, volendo usare degli schemi, in questo senso siamo all'opposto del caso germanico. Secondo una frase di Palmerston parlava del suo paese come di una nazione in cui ogni classe della società accetta di buon grado la sorte ad essa assegnata dalla provvidenza, mentre nel contempo ogni individuo di ogni classe tenta costantemente di salire la scala sociale, non per mezzo dell'ingiustizia e dell'offesa, né della violenza e dell'illegalità, ma con una perseverante buona condotta, eccetera. Quindi, e questa è un'immagine molto efficace della società vittoriana, una società dove ognuno sta al suo posto, dove i posti sono molto definiti, ma dove ciascuno aspira ed è libero di aspirare a cambiare posto. Quindi una società aperta in cui sono scarsissime le chiusure di ceto, ma in cui per altri versi sono molto forti le identità, diciamo, di ceto o di strato, per non confondere troppo le idee. E non è un caso che nella società inglese, che è una società di middle classes, la terminologia corrente moltiplica le stratificazioni, per cui abbiamo lower classes, lower middle, lower, lower middle, middle lower, cioè con la combinazione semantica, ma dico questo nell'uso comune anche in inglese, si creano una stratificazione molto complessa, con degli attributi di status come tutti conosciamo, perché sono anche poi esasperati negli Stati Uniti: modo di abbigliamento, appartenenza ai club, luoghi di abitazione, oggi saranno, non so, tipo di automobili o di moto, eccetera, però con una fortissima mobilità, almeno come valore, poi bisogna andare a vedere quanti riescono effettivamente a cambiare status, però con un fortissimo tasso di passaggio tra un settore e l'altro. Ci sono poi altri casi, avete già sentito parlare della borghesia italiana da Marco Merigi, ma pensate in un paese come l'Italia, che ha in comune con la Germania innanzitutto di aver avuto una lunga polemica contro la cosiddetta fragilità della borghesia e ha esperienze di regimi reazionari di massa del XX secolo che hanno degli elementi in comune e che comunque sono stati messi nello stesso modo in rapporto con l'esperienza precedente, con certe carenze. Bene, pensate a quanto è differente, paesi entrambi in cui la carenza della borghesia è stata riferita a volte ad una forte presenza dello Stato, pensate a con che profonda differenza c'è del sentire dello Stato nel rapporto tra borghesia e Stato in questi due paesi, in cui veramente siamo in una situazione assolutamente rovesciata. In Italia abbiamo una situazione di onnipresenza dello Stato e di assoluta mancanza di tensione etica intorno a questo elemento, cioè non esiste quel senso di servizio, di appartenenza di cui parlavo prima, quindi siamo in una, e non esiste di conseguenza peso del ceto burocratico. I ceti burocratici, l'alta burocrazia in Italia è formata da notabili, da benestanti, da borghesi, non ha alcuna identità separata di status come ha in Germania. E così via. Il possibile modo di incrociare queste variabili ci condurrebbe appunto ad una serie di specificazioni che mettono in risalto delle differenze, delle peculiarità nazionali. Ciascuna delle quali finirebbe col contribuire ad una definizione del concetto generale di borghese, di borghesia europea, dando ad essa appunto aspetti particolari in quel paese più o meno accentuati. Però lascio qui questa casistica che dovrebbe seguire i vari paesi. C'è un punto però che ho già toccato e che si ricollega al tema della crisi che voi avete discusso in altre riunioni. Questo soggetto del quale parlo è l'uomo, cioè il borghese, è l'uomo del mutamento, dell'innovazione o è l'uomo dell'ordine? Qui io ho fatto già riferimento ad una operazione, come dire, culturale. Una operazione che ha i suoi rappresentanti più noti nei sociologi tedeschi Sombart e Weber, ma che ha alle spalle però un certo Marx, anche tutta una tradizione, di identificazione del borghese con l'innovazione, con la rottura della continuità, col momento della rottura. Quello che, come è noto, Weber ha identificato con l'etica protestante, eccetera. Ecco, non è un caso, tra l'altro, che in molti testi inglesi e tedeschi venga usata la parola francese bourgeoisie per indicare il segmento capitalistico mercantile. Quelli veri, la borghesia vera, nonostante che i francesi usino questa parola in tutt'altra accezione. Ora, il punto è che questo gruppo, quello dei borghesi capitalisti imprenditori che fanno l'industria, innovano, non è in alcun modo egemone nell'orizzonte borghese. Studi, anche qui quantitativi, che a qualche cosa servono, perfino sull'Inghilterra, hanno mostrato che nella distribuzione della ricchezza e dei patrimoni dei ricchi inglesi in età della rivoluzione industriale, la quota da attribuire ai soggetti dell'industria, anche quando l'Inghilterra era l'officina del mondo, è minima in termini al di sotto del 10%. La grande ricchezza è commerciale e finanziaria, è data da rendite urbane, commercio e finanze, in Inghilterra come altrove. I borghesi, la middle class o le upper classes, le elite, non sono, in nessun modo possono essere identificati in un'ottica appunto weberiana con gli imprenditori, né tantomeno in un processo generale europeo, se non ancor meno che in Inghilterra, altrove. In ogni caso, esiste nella prima metà dell'Ottocento quell'idea alla quale facevo riferimento di una universalizzazione del ceto borghese, si completa con l'idea tipicamente post-rivoluzionaria, anni 30, anni 40, di una borghesia, di un terzo Stato, di un nuovo ceto, che ormai, assiso al centro, al cuore della società, ormai si è lasciato alle spalle i grandi conflitti rivoluzionari, ha eliminato l'antico regime, ed è in grado di gestire per il futuro un ordinato progresso, in un'epoca di pace. È l'idea del Just Milieu Ghisottiano, è l'idea di una Francia, di un'Europa anni 30, che si ispira ai modelli però francesi in questo senso, che sembra avere intorno a questa borghesia conquistato le vie per un ordine progressivo o un progresso nell'ordine. In qualche modo l'immagine di un ordine del progresso suona come un ossimoro. Nella misura in cui noi identifichiamo il progresso come un mutamento di condizioni suscitato da innovatori, da appunto borghesi in quel senso, nel senso sovvertiano, che spezzano le regole del gioco, impongono le regole, cambiano. Questo in qualche modo suggerisce un contrasto antropologico totale verso il borghese, se mi consentite un'espressione fascista, pantofolaio, quello che ama il quieto vivere, quello che ama solo l'ordine, che è il francese della tradizione provinciale, il borghese della tradizione provinciale francese piuttosto. C'è un'assoluta incompatibilità tra queste due figure. Ecco, il punto è che nel momento in cui tutte queste figure sociali si coagulano intorno al concetto di borghesia, ad opera, come dicevo, in particolare di Marx, la cosa è praticamente databile, quasi una scelta, come dire. Marx risuscita attraverso Proudhon un termine, borghesia, che era molto comune, come tutti sappiamo, nella Francia del 600 e poi nella Francia del 700, ma che proprio la rivoluzione aveva spazzato via come un termine ormai desueto. Lo risuscita in senso molto ambiguo, facendone, chiamando così il terzo stato come soggetto dell'innovazione, come soggetto della rivoluzione, come dandogli quella dimensione epico-dinamica che è Marx, e nello stesso tempo caricandolo di tutta quella dimensione denigratoria che era tipica del bourgeois gentilhomme, della tradizione del borghese d'antico regime. Uno sguardo denigratorio su questo soggetto che era lo sguardo tipico dell'aristocratico, nel caso dell'antico regime vedeva il parvenu che aveva comportamenti mimetici e li disprezzava. Ecco, in questo senso si fondono queste due dimensioni, la dimensione epica del progresso, il borghese conquistatore, con quel soggetto che negli stessi anni di metà secolo Flaubert coglieva identificandola come il soggetto della mediocrità provinciale. Flaubert diceva: j'appelle bourgeois quiconque pense bassement, chiunque, la mediocrità, laddove la medianità diventa mediocrità. E, ecco, e questa è una sensazione che non è soltanto a metà secolo, non è soltanto in ambiente francese. Se noi leggiamo On Liberty di John Stuart Mill, il saggio sulla libertà, Mill elogia la necessità della libertà di parola e del dibattito politico perché nuove idee possano emergere, quindi elogia l'innovatore, colui che ha il coraggio di imporre delle idee, di difenderle. Il suo nemico è il conformismo a cui Mill attribuisce, siamo a metà secolo, una forza totalitaria di stroncare l'innovazione, e il soggetto di questo conformismo sono le middle classes del nostro paese, la chiesa anglicana, dice Mill. L'idea che la classe media sia appunto la mediocrità stagnante, il desiderio di ordine, il sospetto di qualsiasi idea nuova. Siamo veramente all'opposizione rispetto all'immagine costruita dopo. Ecco, mentre più tardi, in età imperialistica, si porrà anche un altro problema. Sarà un problema posto in modo molto efficace nel nostro secolo da Schumpeter, anche di fronte al problema della razionalità capitalistica. L'innovatore, l'imprenditore, questa nuova figura della modernità borghese capitalistica, l'imprenditore, può essere assunto a tipo ideale del borghese o invece non rappresenta quasi un residuo dei tempi passati, una specie di eroe medievale che da solo lancia in resta, combatte contro tutto il mondo per cambiare tutte le regole del gioco, a suo profitto, naturalmente a profitto dell'impresa, del denaro, ma rappresenta idealmente qualche cosa che è antitetica addirittura all'ordine borghese come all'ordine dell'equilibrio razionale. riflessione suscitata da tutta la discussione sull'imperialismo, nella quale lo spirito di conquista, appunto tipico dell'imperialismo, si presenta come qualcosa di assolutamente incompatibile con l'ordine liberale borghese. Questa è una riflessione che nasce in ambiente inglese, soprattutto dopo l'esperienza della guerra boera, in cui questi inglesi finivano il secolo, dopo aver conquistato tutto il mondo, andandosi a infangare in una guerra, l'unica guerra da loro combattute con truppe bianche sul continente nero, in cui ci hanno preso una patosta terribile, per cui i figli dell'elite inglese, le famiglie dell'elite inglese hanno visto morire i propri figli senza sapere perché. E dopo aver costruito per un secolo un mondo che doveva essere un mondo dell'ordine razionale, dell'equilibrio borghese progressivo, questo provocò uno shock, appunto, che aprì una forte discussione sull'imperialismo. Ecco, tutto questo, e posso così concludere, soltanto evocando alcuni temi di cui senz'altro avete parlato quando si parla di borghesia fine 800 e primi 900 come dimensioni di crisi. Alla fine dell'Ottocento e nel Novecento si pone il problema di vedere in che modo questo soggetto, il borghese, la borghesia, che si era definito nella prima metà del secolo appunto come il soggetto del progresso, dell'ordine, della ragione, eccetera, che rapporti ha con il mondo pre-borghese, in quest'epoca di teste coronate e di cannoni, di carneficine, di irrazionalità, che rapporti ha con qualche cosa che si è portato dietro da epoche precedenti, e quindi in che misura questo qualche cosa frutto di insufficiente tasso di borghesità, di rivoluzione mancata, o in che misura invece si tratta di fenomeni che potete definire post-borghesi, sopravvenuti, e che allora mettono in crisi il modello, l'immagine. Come è noto, la discussione anche di recente è stata suscitata dal grosso dibattito cosiddetto sul Sonderweg e germanico, cioè sul fatto di vedere se le peculiarità dell'esperienza storica germanica, alla quale appena facevo riferimento, hanno a che fare con il nazismo, cioè in che modo possono essere ritenute corresponsabili dell'esperienza nazionalsocialista. E qui chi ha sostenuto questo ha sostenuto una tesi detta della feudalizzazione, della rifeudalizzazione, per cui nella seconda metà dell'Ottocento la borghesia tedesca, dopo aver fallito a metà Ottocento la propria rivoluzione, si è andata sempre più feudalizzando, cioè mimetizzando in comportamenti, in legami, in orientamenti filo-aristocratici, vicini allo Stato, al Reich, eccetera, e in questo senso rifeudalizzando, fino ad avere prodotto fenomeni che sono per loro natura lontani dall'immagine del regime borghese. È anche vero però, e questa è una discussione in gran parte superata, ma insomma è una tesi che è stata sostenuta, è anche vero però che possiamo dire, laddove la borghesia nell'Ottocento non ha avuto la forza, l'energia, le capacità di vincere questa battaglia e porsi come ceto generale, non soltanto si è trascinata dietro, per così dire, elementi del passato aristocratico, ma ha perso continuamente terreno anche di fronte a nuovi ceti che l'hanno incalzata, diciamo così, dal basso. Non mi riferisco tanto alla classe operaia antagonista storico definita come tale da Marx, ma mi riferisco a quel nuovo arcipelago sociale che in genere, in modo altrettanto indistinto, noi evochiamo quando parliamo di piccola borghesia, cioè di nuovi ceti che non hanno quelle caratteristiche virtuose, etiche, che richiamavo prima, e che però si pongono in fortissimo conflitto e in fortissima attrazione mimetica verso la borghesia stessa. E qui si collega quindi questa idea di borghesie impari, non compiute, da una parte dicevo non compiute rispetto alla loro rivoluzione storica verso l'antico regime, le borghesie che non hanno saputo completare il proprio processo rivoluzionario verso il passato, borghesie che non avevano abbastanza guadagnato abbastanza spazio, centralità, egemonia e sono state scavalcate da nuovi gruppi emergenti che non avevano le, tra virgolette, le virtù proprie del ceto. E qui si collega a questa immagine un'idea marxiana molto forte che la storia della borghesia come ascesa contenga anche l'immagine del declino, cioè che una visione trionfante, epica, del soggetto borghese come soggetto rivoluzionario è collegata in Marx al tracollo, alla tragedia del declino, cioè una dimensione ciclica di questo. E allora in che misura nel Novecento noi siamo in presenza del declino della borghesia di fronte a nuove situazioni, a nuovi ceti? Questi sono appunto problemi che la storiografia, l'analisi storica, in particolare del Novecento, in particolare come è evidente di fronte a regimi, situazioni sociali che si presentano, non possono essere presentati come arcaici, residuali. Nessuno presenterebbe il nazismo, il fascismo, il peronismo, il bolscevismo come regimi del passato. Quindi hanno un fortissimo tasso di modernità, si presentano però nello stesso tempo come dire, evocatori di dimensioni che nella definizione di borghesia, alla fine ottocentesca di borghesia, appartengono di certo al passato. Ho appena fatto cenno, incidentalmente, a questi regimi anche ai regimi non europei. Non c'è dubbio che alla fine di questa riflessione una nuova e particolare densità del concetto di borghesia andrebbe cercata nel fatto che questo soggetto socio-culturale è un soggetto tipico della civiltà europea, che le borghesie terze, sono stati coniati molti termini, le borghesie compradore, le borghesie mediatrici, le borghesie dell'intermediazione col capitalismo, tante parole, perché non c'è dubbio che in molti regimi terzi il processo di modernizzazione produce soggetti, i militari, i mercanti, classi politiche, che in qualche modo sono le borghesie nazionali, altro termine che è stato coniato. Sembra che veramente però ciò di cui stiamo parlando sia un'esperienza, non so se si chiude del tutto o meno col secolo XIX, forse sì, ma tipicamente europea di una fase storica. Ma questo, ripeto, è un discorso molto più ampio che forse servirebbe, aggiungerebbe una nuova variabile tra le mille che ne ho evocate, ma certo non sarebbe quella essenziale e determinante. Io credo di avere più o meno rispettato i tempi, forse un pochino scavalcati i tempi delle vostre. Grazie. Grazie mille. Penso appunto che il quadro delineato è molto mosso, complesso, articolato, per cui gli spunti non mancheranno, quindi lascio a voi direttamente la parola per domande, chiarimenti e altro. Devo dire chiaramente che ho sempre, così che mi sento sempre di imbarazzo quando si tratta di usare questo termine. Io personalmente non riesco a farlo, grazie al lavoro del campo della storia politico costituzionale, quindi quello della storia sociale, però non mi capita nemmeno di incontrarlo. Non mi capita di incontrarlo e non so mai come farlo. E giustamente lei, giustamente, cioè, mi sembrava così, ecco, che partire dalla definizione anziché perdersi a fare la ricerca empirica storico-sociale dei vari paesi potesse in qualche modo insomma potesse aiutarmi a porre dei paletti a questo progetto. Ho avuto però cioè io se ho capito bene quando lei ha partito definire questo concetto è partito dalla distinzione classe ceto. Ecco, prima ha tentato di porre degli aggettivi, mi sembra, nel tipo di libero, poi con l'aggettivo di proprietario, di soggetto per la società civile. E poi ecco, si è misurato che Io ho capito benissimo. Quando però poi lei diceva che la classe, che la classe si colloca nel mercato, si definisce in presenza di un mercato. E poi, se io ho sempre capito bene, che invece il tempo si definisce in base a valori ideali, allo status e ai privilegi che da questo derivano. Ecco, allora ho cominciato ad avere di nuovo difficoltà. In che senso? Nel senso, prima di tutto c'era un problema che mi aveva colpito, perché lei affermava che perché lei ha definito prima la classe del psicologo nel mercato, lì, come se ho ben capito, non voleva dire la classe si definisce secondo nell'economia, ha parlato di mercato. E poi ha parlato, ci ha affermato però anche prima, dei borghesi che, di cui parla Marx Weber, che sarebbero quelli che dispongono della sufficiente indipendenza economica per potersi dedicare alla difesa dell'interesse generale. Adesso io non so se ho una distorsione dovuta al mio occupare di distorsione. Però c'era questo problema che di solito, io mi occupo per trovare la storia prussiana, che di solito quando si parla, almeno delle fonti, delle fonti, della letteratura, insomma, tedesca, di persone che sono in tedesco abkündig, cioè che hanno la disponibilità necessaria per occuparsi di politica o di cultura, che hanno il tempo necessario, insomma, la serenità necessaria, queste persone qui di solito non vengono detto. Sì, di solito con coloro che godono ad esempio di una rendita fondiaria, ad esempio. E quindi ecco, questa cosa già mi sfalsava, cioè non riuscivo più a capire in che senso borghese, almeno per il caso tedesco, potesse essere colui che si può andare a cantare. Poi, un'altra cosa, poi c'era anche sul concetto di ceto. Io mi rifaccio le mie piccole esperienze di ricerca e mi sorgeva sempre il dubbio che quando si parla di ceto, per esempio, che quando si parla di borghesia in Germania, di solito, almeno persone come Coppa, altri prodotti dicono è necessario però sempre fare dei discorsi diversi tra Bildungsbürgertum e Besitzbürgertum. Il che però escluderebbe che al concetto di ceto possa essere ascritto solo la borghesia colta. Erano un po' di dubbi che erano sorti, non credo di riuscire a scoprire niente di particolarmente sistematico. E poi, quindi, magari dico, c'è un'altra cosa, cioè, mi chiedevo quando, non so se nel caso inglese o nel caso francese, quando si possa parlare di borghesia o quando i contemporanei parlano di se stessi con borghesia, di borghesia. Naturalmente questo sarebbe così, da questa informazione. Lei appena ha parlato appunto di borghesie impari e di borghesie incompiute. E io mi chiedo, ma non lo so, ma è mai esistito un momento storico in cui si è potuto parlare di una classe o di un ceto? Borghese che fosse presente e che fosse chiaramente identificabile, cioè non so se sia un problema solo nostro del Novecento, probabilmente è stato tanto del Novecento quanto oggi del Novecento, anzi forse di più, perché c'era questa tensione a staccarsi da un ceto vecchio che era quello dell'aristocrazia e invece non si riusciva almeno all'esterno a dare un'immagine che fosse coerente, perché in effetti questa borghesia si è sempre dibattuta tra l'ordine, il progresso, secondo l'imperio, la valutazione economica, l'innovazione, la modernità che insomma si degrada nella visibilità e così via. E poi ancora mi ha aumentato ancora la confusione in pensare che per esempio gli stessi liberali borghesi della metà dell'Ottocento, quando parlano del caso inglese ed esaltano il parlamentarismo inglese, ad essere presi ad esempio non sono mai i borghesi o la middle class inglese, ma sono sempre gli aristocratici particolari, tutti diversi da quelli tedeschi, cioè chiaramente la tenuta familiare, più lei opta per riconsegnare la confusione tutta la materia, il che forse è corretto, perché non è un caso, per esempio, che le scienze sociali, lei ha cominciato con una cosa maliziosa, cioè dice, beh, nel campo mio della storia politica e costituzionale non si incontra proprio la parola, quindi sì. Il problema è non soltanto che qui siamo riuniti a parlare di borghesia da varie sedute, poi ci sarà un convegno, quindi un po' bisogna cercare di anche, ma il fatto è che questa parola che crea e evoca tanta confusione è una parola però che da un secolo e mezzo a questa parte è ossessivamente presente nel dibattito letterario, culturale, economico, europeo. Allora, il problema è sempre o di fare la storia della parola, vediamo chi l'ha usata, quando e perché, e a questo lei non può, e non può rispondere, ma la borghesia non c'era, perché stiamo parlando, sappiamo che forse non c'era, o non c'era in Germania, non c'era in Russia, non c'era qua, ma questa parola era molto usata. Ne può obiettare, ma chi mai si è autodefinito borghese? Quasi nessuno. Perché borghesia è un termine relazionale, io definisco lei borghese, non definisco me borghese. Quasi tutti i termini relazionali, se sono assunti come un elemento di autoidentificazione, lo sono in dimensione polemica, anche lì relazionale. Per esempio, in particolare in Italia, mi è capitato di osservare che gli unici che si sono definiti in questo dopoguerra borghesi, come quando Longanesi ha creato un settimanale, l'ha chiamato il borghese, era in tono fortemente iconoclastico, come dire, di assumere su di sé una dimensione spregiativa e rivendicarla, e in un gioco piccola borghesia, alta borghesia. Quindi voglio dire, il fatto di osservare, ma è un concetto che non riesce a identificare bene i gruppi sociali. Gruppi sociali, se noi identifichiamo questa parola, non sono così, o addirittura non è un termine usato per l'autoidentificazione, non è una risposta, perché il problema è di vedere perché, in che chiave questa parola circola tanto. Ora, lei ha detto, ma io ho seguito fino a un certo punto, poi quando si è cominciato a parlare di classe, eccetera, io ho utilizzato quell'accezione weberiana, economia e società, volume secondo, come ingresso in un problema, perché lei ha colto molto bene, il punto era quegli altri parole che avevo catto prima, libertà, proprietà, titolarità di diritti, diciamo, il borghese è tutto questo, però ad un certo punto ci sono dei discrimen che ci pongono il problema di vedere fino a che punto ciò è nuovo, è post-rivoluzionario e si caratterizza con elementi di novità rispetto a cose che o vengono dal passato o comunque non tornano molto con questo processo rivoluzionario. In genere la storiografia fa uso proprio di questa distinzione weberiana classe-ceto per alludere a una dimensione, da un lato, che è tipicamente definita come moderna, che sarebbe quella della classe, post-rivoluzionale, e dall'altro una dimensione stendish, una dimensione cetuale, che invece è intrisa di elementi residuali e modernizzanti, in modo molto ambiguo, che ambiguità che anche persona più chiara di me non credo riuscirebbe a sciogliere. Così, ora, a parte la comunità di utilizzare la distinzione weberiana, così il problema messo in luce è proprio questo, a mio giudizio. I borghesi tedeschi, sì, forse qui veramente non mi sono espresso molto bene, è chiaro che nello Staatsbürger, io l'ho detto, ho creduto di dirlo, esistono le sottospecie, come la Bezirksbürgertum, la Bildungsbürgertum, che sono sottospecie, come dire, sistematiche, anche lì non si tratta tanto di una definizione né istituzionale, nessuna legge, né tantomeno autodefinitoria, ma, come dire, la sociologia, la storiografia ha creato queste sottospecie sottolineando una maggiore, non so, forte, ma comunque una maggiore identità di ceto, o se non, se questa parola distante, insomma una maggiore identità di gruppo rispetto ad altri paesi, fino ad arrivare proprio con Coca all'osservazione che forse Bildungsbürgertum è quasi un termine che crea più confusione di quanti non ne risolva, è una, come dire, una sottospecie, si domanda, ci si può domandare fino a che punto la Bildungsbürgertum, il Bildungsbürger sia un Bürger, cioè fino a che punto appartenga a questa dimensione, però è molto utile perché individua dei fenomeni che sono primi, tipici della società, dell'esperienza germanica e che rimandano nel confronto, la comparazione europea, ad una peculiarità di fenomeni che effettivamente non si ritrovano altrove. E sicuramente il Bürger tout court, lo Staatsbürger, in qualche modo li comprende tutti. Io non sono molto d'accordo, lo so che quando si parla di benestanti si pensa ai titolari di renta, ai gentlemen, alla persona che vivono di figura rendita tepiera. Allora dico questo, che parlando dell'universo borghese ottocentesco, i titolari di rendita, i benestanti, coloro che quindi anche leggono e pensano, sono dei borghesi, appartengono a questo orizzonte. La specificità della Germania è che nonostante questo, che è un elemento che rimane, tuttavia sono molto più distinti dal borghese in senso proprio, di quanto non avvenga per esempio in Francia o in Italia. In Italia, per esempio, il mero proprietario estrattore di rendita, il ricco, il benestante, è molto più appartenente ad un comune universo della modernità liberal costituzionale borghese di quanto non avvenga in Germania. La figura è quasi identica, ma l'appartenenza di status è molto più forte in Germania. Come? Beh, come elementi, come dicevo, che appartengono anche all'ordine istituzionale, titolarità di diritti locali, diritti di voto nelle assemblee, di prerogative, di incariche, eccetera, eccetera. Fenomeni di endogamia. Fenomeni di endogamia, per esempio, una delle tesi della federalizzazione avrebbe sostenuto implicitamente che l'attrazione mimetica degli Junker prussiani verso i grandi imprenditori tedeschi è fortissima, cioè che questi imprenditori, questi capitalisti, nella seconda dell'Ottocento vivono come nobili nel Medioevo, si sposano le principesse, eccetera. Una ricerca recente proprio sui tassi di endogamia e di sociabilità degli altri imprenditori tedeschi ha mostrato il contrario, che c'è una forte, almeno per quanto queste cose possano essere oggetto di sistemazione quantitativa, che c'è una forte non dico chiusura, ma insomma endogamia, una forte carattere centripeto dei comportamenti sociali degli alti capitalisti, ma questo è un elemento che va a favore di una forza di questi borghesi o di una debolezza. Mi spiego, cioè dire tutti gli industriali che mettono su un'industria d'acciaio vogliono che la figlia si sposi con uno Juncker, oppure dire no, non è affatto vero, le figlie si sposano con altri industriali dell'acciaio. Quale delle due comportamenti suggerirebbe l'idea che c'è in quel momento una borghesia forte, che il quadro complessivo è più potentemente borghese? Quello della mimesi, o invece quello di una orgogliosa identità di ceto che però segmenta, che però mantiene in una dimensione di separazione questo ceto rispetto all'imperatore, rispetto alla corte, eccetera. La discussione è aperta, ripeto. Resta il fatto che siamo in presenza di una società nella quale questo fenomeno complessivo è più fortemente segmentato. Se lei poi mi dice che, ma in genere io non chiamerei borghesi percettori di reddito, va bene, sì, va benissimo, hanno anche a volte altri nomi, cose che in Italia o in Francia non hanno, questo è significativo. Però sicuramente, ripeto, questa distinzione è un elemento peculiare tedesco all'interno di un mondo che complessivamente è un mondo borghese. Nessuno si sognerebbe di dire che la Germania Wilhelmina, senso comune, non è uno degli stati borghesi europei. Se questa parola deve essere usata, sicuramente di questo si tratta. O non usiamo la parola, oppure appartiene allo stato. Non userei la stessa parola per la Russia, perché lì veramente mancano tutti quegli elementi. È uscito di recente un libro in America che paragona le middle classes in Germania, Francia, Italia e Russia, e premette, dice, in Russia non ci sono, e poi va avanti tutto il libro paragonando, dicendo che non ci sono, i borghesi non ci sono, che è uno strano modo di paragonare. La Russia è la terra dei fuori, ma sicuramente non la Germania della seconda rivoluzione industriale, non la Germania della legislazione sociale, non la Germania della maggiore produzione di acciaio, eccetera, eccetera. quel regime borghese è un regime che ha queste caratteristiche. Lei mi dice forse è inutile chiamarlo borghese, può darsi, è utile però discuterne. La parola borghese serve a discutere queste cose. Prego. Io le pongo una domanda, ma non sui contenuti delle risposte che certamente hanno logica di scientificità, sottendo logica di scientificità, sono risultati di analisi, di visione, di studio. Ma io tutto il pomeriggio mi sono posto come insegnante e dovrei cercare di recuperare all'interno delle mie domande, possono essere questa questione. Allora, insegnando un triennio del superiore, io, sin dall'inizio, tanto che insegno storia, tanto che insegno letteratura, tanto che arte, eccetera, mi trovo di fronte alla categoria borghesia. Nel 1200 io mi trovo già il termine borghese. E adesso io trovo sul manuale il termine borghese. Mi trovo borghesia mercantile, mi trovo proprio borghesia, mercanti associati a poco, mi esempio. In letteratura mi trovo persino, si trovano distinti persino, teorie che affermano la il loro concetto di nobiltà espresso nello stinnolo è un concetto borghese, un concetto espresso da un'elite borghese per affermare una superiorità di fronte a un'elite nobiliare, e quindi si afferma la nobiltà, il fatto di testura, no? Di anni, di otto, eccetera, rispetto alla nobiltà del sangue. Ora, di fronte a una sì, lei pone un problema credo più vasto di questa o di altre riunioni del genere. In che modo in questi corsi di aggiornamento una discussione che può essere più o meno efficace, ovviamente più o meno ricca e intelligente, può tradursi in un'utilità per l'insegnamento, in particolare medio o anche nei primi anni, magari 14 anni, eccetera. Credo che sia un problema che va al di là di tutto questo. Basti pensare, ma non mi soffermo su questo, che io insegno in una facoltà di lettere e filosofia dove non un solo esame, non un solo momento della vita dello studente è dedicato a immaginare percorsi didattici. I nostri laureati, che poi siamo tutti noi, insomma, in altri momenti, il giorno dopo o 10 anni dopo, seconda la laurea, si vengono catapultati in un'aula senza che nessuno... Questo in altri paesi non è così. Come si fa una lezione, come si implica... Ci sono istituti appositi, forse in Italia si sta anche creando, forse anche questi corsi di aggiornamento cominciano a muovere, però il problema è veramente grosso. Non me la voglio comunque cavare così dicendo, beh, siamo qui, poi gli altri vedranno. Io credo che sicuramente la parola borghese, borghesia, sia una delle più complicate, una delle più complesse. Io ho suggerito un paio di percorsi. Uno è quello di dire questa parola si trova come il sale e il pepe in tutti questi manuali, lo stilnovo, la borghesia. Riduciamo la storia alla parola, facciamo come dire una decostruzione. Ragazzi, voi trovate, vi siete accorti che voi in 3 pagine trovate questa parola, ma che vuol dire? Riduciamo la storia a una parola, facendo osservare loro che 50 anni fa, 100 anni fa, non lo so, probabilmente tutte le stesse cose sarebbero state senza usare quella parola. Quando lei mi parla di manuali che dicono è dolce stil novo, c'è cioè l'atteggiamento borghese, mercantile, eccetera, mi domando, adesso non è una discussione da fare con gli studenti le cose vanno presentate in modo più semplice, mi domando tra me e lei, non è forse questo un estremo portato e consapevole di un'egemonia di materialistico, non so, marxistico gramsciana, che si riproduce nei nostri manuali, perché a un certo momento tutto quello che succede nell'Europa comunale medievale moderna è decifrabile alla luce di questo concetto. Allora per me è stato molto utile quello che accennavo poco fa, leggere in una ricostruzione della storia della parola che questa parola nel 1830 non era usata in Europa. Io ho trovato un dizionario di politica, così si chiama, dizionario di politica 1830 in Italia, borghesia, parola recente di origine francese, la parola di borghesia è una parola italianissima. Bene, nel 1830 in Italia, almeno questo dizionario non sarà stato, diceva, come? Non ricordo perché, non ricordo nemmeno l'autore perché l'ho visto citato, ma c'è scritto, ho ricordato in quell'affare lì, sì. Bene, allora voglio dire, un percorso può essere questo, di storia delle parole. Le posso anche dire, io giorni fa ho letto un articolo su, mi pare, La Repubblica, sulla campagna elettorale americana, si parlava di bourgeoisie, cioè dell'atteggiamento dei circoli intorno a Bush, degli atteggiamenti snobistici, e in America si parla di bourgeoisie, uno potrebbe veramente, quelli ragazzi, vedete questa parola? La troviamo in tutte le salse, proviamo a vedere cosa vuol dire e da dove nasce. Ecco, dicevo, una ipotesi è la storia della parola, almeno potrebbe rimanere loro l'idea che queste parole, alcune non altre, hanno una relatività assoluta, sono veramente figlie dei loro tempi o dei propri tempi e hanno delle densità di significato che si incontrano intorno ad alcuni testi e che quindi poi da lì dilagano. Un altro modo è quello, come dire, più sociologico, di dire, ma vediamo. Gruppi specifici, e se noi ci ancoriamo a questo, gruppi mercantili, delle città urbane, non lo so, la cosa può essere discussa, ma teniamola per un attimo per buona, si può stabilire un collegamento di come mai il tale autore poi dice, riferisce anche una poesia, uno stile, un momento storico, tutto a quella realtà. Dopodiché, sa, evidente, rimane a me, lei mi dice, lei poi anche altri colleghi perplessi, possiamo anche concludere che la mia esposizione è un po' troppo problematica. Io credo però che parlando dell'insegnante, non agli alunni, cioè a dei soggetti che non possono che filtrare, non possono che discutere, così stimolati alle letture, eccetera, e poi le cose che gli studenti se le inventano loro, io non so proprio, però il mio compito è di, come dire, provare a discutere con degli insegnanti. Se io parlassi degli studenti non farei mica una lezione, che l'ho fatto, no, se la senti, appunto. E quindi forse il motivo di questa sorpresità andrebbe chiarito, se è un motivo che riguarda, come sicuramente tutto che riguardi anche la mia esposizione, che avrebbe potuto essere, come dire, dare delle indicazioni più direttamente utilizzabili, oppure la natura del problema, che è complicata. E allora è come fare a discutere. Io ho degli studenti all'università che hanno tra i 18 e i 20 anni, cioè dei figli in casa che fanno gli studenti del liceo, che di mestiere fanno gli studenti del liceo, che hanno dai 16 ai 20 anni. Cioè ho un minimo di... e mi rendo conto che l'universo borghese, come dire, l'universo semantico di questa, rispetto a quando io avevo 20 o 30 anni, è completamente cambiato. Nel senso che per me era un concetto in qualche modo di significato immediatamente percepibile. Sbagliato magari, ma come dire, immediatamente era un mezzo di comunicazione quasi... Per loro no. E allora forse bisogna anche ricostruire si può provare a ricostruire una storia di questa parola, di questo concetto. Sicuramente siamo in un'epoca post-borghese. Io ho chiesto ai miei studenti di tentare un'auto-identificazione di appartenenza di classe e di notare come questa sia impossibile. Di notare, di richiamare la loro attenzione sul fatto che loro vanno all'università, si occupano dei casi sociali e nel momento in cui viene richiesta loro un'ipotesi di auto-identificazione ritengono questa dimensione assolutamente inapplicabile. Beh, anche questo è interessante. Comunque, ci scambiamo delle incertezze, non ho molto da dirle. Ma Se posso aggiungere una cosa a questo, c'è un elemento di fondo, io sono d'accordo ovviamente, che bisogna dire fino a che punto con gli studenti medi ai quali si insegna la storia si può trasmettere un'idea che la realtà storica non esiste, ma che esiste soltanto un discorso sulla realtà storica, o viceversa bisogna in qualche modo ancorare la comprensione di questa disciplina ad una in qualche modo verificazione di queste cose. Se si parla di ipocrisia ci sarà stata, era una cosa, io non so cos'è, adesso lo imparo, dopo lo so. Ecco, se questa seconda scelta, che è necessario, come di immaginare la storia come una serie di vicende, di eventi, di fenomeni che veramente ci sono stati, bisogna saperli. Forse l'uso del termine borghesia è sconsigliabile, è comunque da essere ristrettissimo ad alcuni momenti, situazioni molto precise. Se si ha invece la possibilità di scavalcare questo, di riferire soltanto, come vi ho detto, di chiamare l'attenzione sul diverso significato, in diversi contesti, momenti, recuperi di parole, di termini, eccetera, allora forse proprio sono alcune parole il cui uso come questo è molto efficace. Due elementi. A proposito del disprezzo dei lavori manuali o comunque l'elogio del colui che non fa lavori manuali come una dimensione positiva, questa è una dimensione completamente estranea al mondo di oggi. Certo il ricco rattier che ha possibilità di stare sempre in vacanza magari può essere un soggetto di invidia, ma il notabile cittadino che non facesse nulla, come nessun notabile ha mai fatto nell'Ottocento, è per un giovane persona di oggi oggetto di disprezzo o sconcerto, di inconsistenza. Una persona che non lavora è inconsistente. Beh, proviamo a immaginare, a suggerire idee invece questa idea che da secondo millennio in qualche modo si può essere addensata intorno a questa parola borghesia o intorno ad altre parole, e che suggerisce questa dimensione come dimensione del passato. Viceversa, ancora generazioni recenti, non so se i ragazzi di oggi ne hanno memoria, per la strada si sentivano dire parole come padroni, borghesi ancora pochi mesi, per esempio. Io non so se loro ne abbiano memoria storica, forse sì, forse no, però sono eventi più vicini. Allora, pur nella stessa incertezza scolastica, cos'era borghesia, cosa vuol dire, però questa parola era comunemente usata e in qualche modo un messaggio era trasmesso. Dei ragazzi che andavano a protestare, dicendo, padroni, borghesi ancora pochi mesi, interrogati su cosa fosse, su cosa volesse dire, ne sapevano quanto quelli di oggi. Però questa parola la usavano o la sentivano usare tutti i giorni. Anche questo qui è un elemento, come dire, è uno scarto sul quale riflettere, che ci sono delle parole che vengono usate anche se non si sa cosa vogliono dire, perché si attribuisce loro in determinati contesti, in determinate congiunture, dei significati, e sono un modo di rendono possibile una comunicazione. E allora forse il rapporto tra, per esempio, questo uso della parola e tutte quelle cose che stanno scritte nei libri si può fare, perché anche in quell'uso che dicevo quotidiano di un tempo, quando i borghesi ancora pochi mesi, la derivazione storica era nettissima, cioè questo lì è stato scritto sul manifesto del 48 a una data precisa, in quell'accezione, da una storia molto precisa. Non giriamoci intorno, diveniamo al punto. Allora, io dico, se abbiamo detto cosa non è la poesia italiana, quali sono le diversità della poesia tedesca, o come il Bourgeois sì, no? Francese è diverso dal tedesco. Evidentemente in Francia ci sono i maschi, in Germania ci sono le donne, in Italia degli altri, in Inghilterra degli altri, in un determinato momento storico. D'accordo? Allora dico, signore, con un termine che sul piano lessicale può essere equivalente, abbiamo contenuti diversi, riferendo la realtà diversa, con la tedesca, con la francese, con l'inglese, con l'italiano. Perché? Perché sono collegate a peculiarità, a contesti differenti, perché hanno storie politiche, istituzionali, economiche, dietro diverse. Ecco, avrei, senza mettere a quanto giudicare la qualità della storia insieme americana, non nella autorità, nella conoscenza per farlo, avrei forse desiderato questo. Sì, io l'ho detto all'inizio, ho detto si potrebbe dare per scontata un'accezione empirica ma non sbagliata che i borghesi sono insieme a tutto questo e poi fare e discutere i vari paesi. Ho detto io sceglierò di non farlo, scelta sbagliata forse, l'ho annunciato, ho fatto una scelta, ho cercato di giustificarla. Le faccio presente che quando che se io avessi fatto questo avrei parlato, come lei mi ha suggerito, ma sono d'accordo, di borghesia italiana, francese, tedesca eccetera. Quando gli studenti aprono il giornale tutti i giorni si accorgono che in Lombardia e in Campania e in Sicilia la realtà dei ceti medi e degli imprenditori è totalmente diversa. Bastava che uno dicesse, ma scusi, ma di chi stiamo parlando? E allora c'era un momento, quella siciliana, quella piemontese, e dice sì, ma c'è poi... Non si... E allora di fronte a questa parola, ma ce ne sono altre, la parola proletariato, è utile dire... Questo è il proletariato, adesso vediamo com'è il proletariato francese, com'è il proletariato tedesco, com'è il proletariato turco, com'è il proletariato... È utile? Secondo me no. In certi momenti storici, in certe fasi didattiche anche, ci sono anche dei momenti didattici che uno dice, vabbè, intanto ve la dico, ve la vendo così. Però, discutendo tra insegnanti, forse è bene chiarirsi le idee che non ha senso questa cosa di dire facciamo finta che esista e poi andiamo a vedere com'è nei vari paesi. Anche perché non è vero che questa parola... con la stessa accezione semantica è stata utilizzata in modo diverso in vari paesi, è stata utilizzata da vari autori in dati momenti storici in modo diverso in relazione ad altri paesi. Cioè la realtà, mettiamo tedesca, così come si è presentata, tutto questo discorso del Sonderberg, se non ci fosse stato il nazismo, cioè, prima del nazismo la parola Sonderberg esisteva, voleva dire un'altra cosa, cioè la peculiarità tedesca aveva altri accenti prima del nazismo, ci credo. Quindi in determinati contesti storici, in determinati momenti, da parte di alcuni autori, in determinati climi culturali, con riferimento a determinate... mi permette di segnare la lettura di un libro molto piacevole, così, a leggere a letto, non tanto la sera, così, come... Dentro l'Inghilterra, di Michael Dean, un sociologo inglese, che è andato fuori dall'Inghilterra e ha detto proviamo a vedere che immagini hanno, si ha fuori in Italia, nelle barzellette, nei telefilm dell'inglese. E proviamo a vedere se queste immagini, inglese freddo, aristocratico, tutte queste cose, che senso hanno, da dove vengono, che riferimento hanno a quello che sappiamo dell'Inghilterra, chi le ha costruite, quando, perché. Beh, è una lettura molto interessante perché, primo, la maggior parte di questi stereotipi nulla hanno a che fare con alcune peculiarità statisticamente rilevabili. Voglio dire, in Inghilterra se ci sono più o meno conflitti operai, se ci sono più o meno nobili, se ci sono nulla di... Non solo, queste immagini sono immagini, come dire, costruite in una specie di specchio, in alcune delle quali gli inglesi si riconoscono e altre gli inglesi ignorano, come dire, sono immagini di scambio. Ed infine, per esempio, a suo giudizio, sono immagini che tipiche di una certa fase dello sviluppo, cioè l'Europa avrebbe costruito uno stereotipo collegabile a fasi dello sviluppo industriale, economico, primo sviluppo, quello dell'Inghilterra, che non si applicherebbero più alla realtà attuale, ed allora degli stereotipi vengono a mutare e per esempio emerge un bel capitolo di questo libro, lo hooliganismo come fenomeno più tipico della realtà inglese. Oggi forse ad un giovane l'inglese può apparire, alla persona di oggi, lo stereotipo inglese più vicino a fenomeni di disgregazione sociale come il teppismo e gli stadi, per esempio, che non a fenomeni come 50 anni fa, come fenomeni che identificavano l'inglese 50 anni fa. Ecco, è un libro interessante, ben scritto, che mostra che non è soltanto il fatto che certe realtà suscitano certe interpretazioni di certe parole, no, perché le variabili purtroppo sono molto di più. Chi, come, quando e dove e in che rapporto, cosa pensano gli italiani degli inglesi, gli inglesi e gli italiani, no? Però lei diceva comunque, era meglio se mi si raccontava. Però devo dire, tutto sommato è come se fosse un pa... O noi crediamo che le cose sono più, come dire, oggettive e manualistiche, voglio sapere quanti erano, dove erano, basta. O noi crediamo che invece conti molto il discorso che si fa su, e allora è difficile fermarsi a metà strada, cioè smontare due o tre cose ma il resto non toccarlo. O si smonta tutto e ci si mettono a un tavolo a discutere. E poi con gli studenti bisogna ricostruire qualche cosa. Tocca a ciascuno di noi in aula. Se posso aggiungere io, più che una domanda, e sì, una considerazione che mi veniva ascoltando appunto la sua lezione. Io per fortuna appunto non ho preoccupazioni di insegnamento, per cui credo che il discrimine sia poi tutto lì, nel senso che quanto più uno è concentrato su una ricerca specifica di dettaglio, tende a precisare sempre più e ulteriormente, quindi a complicare il quadro, e diversamente invece se uno deve poi trasmettere delle notizie, delle informazioni, ha bisogno di semplificare molto di più. Però l'uno e l'altro procedimento, secondo me, sono comunque uniti all'interno di un discorso, cioè sono esigenze diverse ma che a volte possono anche combinarsi. Io la cosa che ho maggiormente apprezzato è che mi sembra, se ho colto bene, è che questo XIX secolo, secolo della borghesia per antonomasia, del progresso, del moderno, della modernità, in fondo poi si riduce quasi a poco, compresso com'è tra una persistenza di antico regime, senza voler riprendere a tutti i costi, insomma, le tesi di Arno Mayer, ma e l'emergere invece di una società di massa complessa, con soggetti, diciamo, diversi dal soggetto, l'individuo borghese, liberale, insomma, centrale. Per cui questo secolo diventa poi alla fine quasi un po' un mistero, no? Si riduce a poco, diciamo, tra queste propaggini e questa evenienza di novità. Non solo, ma poi voglio dire, il termine borghese non suscita solo difficoltà a proposito di quest'epoca. Basti pensare, insomma, al dibattito degli anni 70 sulla rivoluzione francese, insomma, borghese o non borghese, rispetto a tutta la storiografia marxista, appunto, che aveva. Quindi voglio dire, io ho apprezzato molto di più questa complessificazione del quadro, ecco. Poi, ripeto, le mie esigenze, no, erano... Il fatto del riportare, mi è capitato anche in un altro corso del genere, l'esigenza giusta di tradurre, insomma, uno domani va in aula, insomma, però forse non occorre riportare, si tratta, come dire, di ciascuno di noi poi usa dei manuali, usa degli schemi di lezioni, un pochino di complicarle, trovare volta per volta degli stimoli, degli chiavi per cambiare alcune cose e basta. È difficile riportare veramente, fermo restando il fatto poi che esistono degli strumenti. Quando viene chiesta una bibliografia, io raramente non ho piacere di dare, perché io non lo può dare, cioè ci sono 50 libri, e vabbè, però sempre di più, proprio per la complessità del quadro storico crescente, sempre di più ci sono dei, come dire, dizionari, enciclopedie, le mani, non più delle storie generali, ma delle, non so, raccolte di voci, che a volte sono molto utili. Il taglio frammentato enciclopedico sempre di più va sostituendo, come dire, la narrazione a tutto tondo. Questo poi è un problema didattico, ma per l'insegnante è molto utile avere ispirazione da delle cose del genere. Se non ci sono